voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Massimo Della Porta, Saes Group nella storia della TV, dal tubo catodico ai cristalli liquidi. Diana Marino. I primi ricordi dell'immagine televisiva ovviamente sono dei ricordi in bianco e nero, e immediatamente il pensiero andava a mio padre, perché anche se ero piccolo già sapevo che senza quello che noi facevamo all'epoca, e poi abbiamo continuato a fare per veramente tanti anni, la televisione non avrebbe potuto funzionare. La parola getter già era difficile da capire all'epoca, lo è forse ancora adesso. In un bambino di pochi anni è facile fare i conti. Io sono del 60, quindi la televisione pochi anni prima era sbarcata in Italia, e all'epoca era un prodotto estremamente innovativo, e su quello poi noi abbiamo fatto l'intera azienda e 70 anni di storia. Ha vissuto tutta la storia della televisione fin da piccolo, ma dietro le quinte, rispetto ai mille e più programmi prima in bianco e nero e poi a colori che sono apparsi sul teleschermo, Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters S.p.A. Il nome riporta una società estera, ma in realtà la società è italianissima, anche se esporta quasi il 100% della produzione. Il fatturato in Italia, infatti, è meno del 2%. Saes sta per Società Apparecchi Elettrici Scientifici. Costituita nel 1940, ha come attività la produzione di getters, componenti utilizzati nella tecnologia del vuoto e nella produzione di gas ad alta purezza. La società è quotata presso la Borsa Valori di Milano. Per molti anni i getter sono stati la specialità della casa, la nicchia di cui questa società è diventata quasi monopolista mondiale. Dispositivi che fanno funzionare i tubi a raggi catodici, quelli dei televisori di una volta, rimpiazzati oggi dagli schermi piatti a cristalli liquidi. Saes Getters ha attraversato turbolenze e rivoluzioni, mettendo in discussione tutto e reinventandosi da regina del tubo catodico ad avanguardia dell'innovazione. Il tubo catodico, che oggi non esiste più, esiste solo in una maniera molto ipertecnica in alcuni schermi, però poi noi abbiamo avuto una prima discontinuità molto importante a cavallo del passaggio proprio degli anni 2000, il passaggio dal tubo catodico al cristallo liquido. Noi siamo riusciti a riposizionare l'azienda e per circa 10 anni abbiamo proseguito nelle vendite anche sulla seconda piattaforma tecnologica, e ora cercheremo di entrare anche nella terza. I nonni della Porta e Canale hanno acquisito prima della Seconda Guerra Mondiale una piccola azienda a Firenze che si occupava di trovare una soluzione alla rottura prematura dei filamenti nelle valvole termoioniche. Le fondamenta nascono dalla prima scoperta avvenuta nel 1951, ovvero la stabilizzazione di una lega di bario e alluminio, che sarà la base di tutte le applicazioni future. Così Massimo Della Porta spiega come nacque l'azienda. L'azienda è un'azienda innanzitutto che è stata fondata ufficialmente nel 1940, quindi prima della guerra. Era una piccola aziendina che, vi posso anche dire una cosa curiosa, era qua in via Monterosa, quindi la prima parte della storia dell'azienda non è lontana da questa sede. Nel dopoguerra i nonni chiesero a Paolino Della Porta, che faceva l'ingegnere civile e opere di architettura, di interessarsene, e lui riuscì tramite i getter a risolvere il problema delle valvole. A metà anni 50 arriva un ordine aperto dalla Philips che fece decollare l'azienda. Era una società nella quale fondamentalmente c'erano dei ricercatori che cercavano di risolvere un problema non delle televisioni, ma delle valvole che poi sono state usate per tantissimi anni nelle radio, nella trasmissione, negli amplificatori di potenza, tuttora vengono usate. Il problema era molto semplice: il filamento di queste valvole si bruciava perché c'era dell'ossigeno, c'era dell'aria nella valvola, e appunto cercavano di inventare un materiale, questo benedetto getter, che serviva a assorbire, a rimuovere tutte queste impurezze che danneggiavano il filamento. Faccio un salto di qualche anno, finisce la guerra, l'azienda andava male, mio papà era appassionato di architettura, era laureato in ingegneria civile e si stava dedicando all'architettura, ha costruito alcuni palazzi qui a Milano, anche molto belli, e mio nonno gli disse: senti, l'azienda va malissimo, vai e vedi un attimino, perché sennò la chiudiamo, ecco. Dentro c'era un ottimo e un bravo ricercatore, questi due messi insieme hanno risolto il problema, e nel 56 56-57, hanno ottenuto un ordine aperto dalla Filco, la vecchia Filco, società americana molto grossa, per 1 miliardo di questi anellini magici, che appunto sono stati il primo Getter. Lei si immagini cos'è stato l'impatto? Da una piccola villettina qui in via Monterosa è stata costruita la prima fabbrica, che era in via Gallarate, ed è andata avanti per circa 50 anni. Nel 1986 Saez Getters viene quotata in borsa valori a Milano e le risorse finanziarie raccolte le consentono di avviare importanti acquisizioni dagli Stati Uniti alla Germania. Ma c'è stata anche la radio nella storia di famiglia, mentre il mercato legato alle TV cresceva sempre più. Io credo che il momento storico più importante nello sviluppo della televisione e del broadcasting che dietro gli è venuto è intorno agli anni tra il 70 e l'80, quando c'è stata l'apertura della televisione ai mercati liberi. Quindi io mi ricordo molto bene il periodo in cui prime radio libere, le prime televisioni libere hanno cominciato a sviluppare, anche perché qui c'è un'altra curiosità di famiglia, che mio fratello ha fondato una delle prime radio libere di Roma, quindi noi all'epoca vivevamo a Roma. Veramente l'ho vissuto questo periodo, era Radio Antenna Musica, anch'io ho lavorato tra l'altro da giovane in questa iniziativa, e quindi lì è stato, credo, il grande momento di discontinuità, il grande momento che ha portato la televisione a diventare l'elettrodomestico più amato da tutti quanti. Poi ovviamente c'è un secondo momento storico che va capito molto bene, e quando la televisione da questo enorme scatolone è diventata piatta, e lì è partita la diffusione di massa. Finché Saez Getters si imbatte in un calo violento degli ordini a partire dal 2000, reinventandosi subito con il processo dei cristalli liquidi, e poi nel 2007-2008 in una seconda crisi, quando il prodotto che serviva per i cristalli liquidi viene sostituito. La tecnologia del vuoto, che ha contribuito al successo internazionale di questa azienda, da punto di forza poteva trasformarsi in un punto di debolezze, col passaggio a un'altra tecnologia che cambiava completamente le preferenze dei consumatori. Ecco come Massimo Della Porta spiega la ripartenza dopo una crisi nerissima. Noi ci siamo salvati nel 2008, 2007, 2008, quando c'è stato un passaggio molto brusco dalla televisione cosiddetta, devo usare dei termini che vengono usati sul mercato, in realtà sono dei termini impropri, lo dico io per primo. La televisione è una televisione LCD, Liquid Crystal Display, è il sistema di retroilluminazione che è cambiato da delle lampadine normalissime, fluorescenti, mini fluorescenti, alle lampade LED. La televisione LED non esiste, è una terminologia impropriamente usata. E questo però per noi è stato un passaggio tragico. Noi abbiamo perso 90 milioni di fatturato, anzi per l'esattezza 92, nell'arco di 4 anni. Il fatturato totale dell'azienda nel 2007 era di circa 167 milioni, e perderne 92 su 167 vuol dire sparire, fondamentalmente sparire. E lì abbiamo avuto la fortuna, la capacità, la visione di riposizionarci attorno a questa tecnologia, che è la tecnologia delle leghe a memoria di forma. Sono dei materiali che noi definiamo materiali intelligenti, sono dei materiali in grado di fare determinate operazioni che tu gli insegni a fare. Per un'analogia molto semplice e comprensibile, si può usare il tendine di una mano o i nostri tendini, cioè un materiale che attraverso un'attivazione elettrica si contrae, si allunga, fa esattamente quello che tu gli vuoi far fare. Un andamento in picchiata che avrebbe ucciso molte società, quotate e non, ma non Saez Getters, che in questi anni si è contraddistinta per una continua attività nella ricerca e sviluppo e nello sviluppo di nuovi brevetti. Ne possiede oltre 350. E proprio per questa visione del futuro e capacità di sopravvivenza, Massimo Della Porta può fare previsioni. Ecco, dove vanno i materiali? Dove cercano di andare i materiali? Torniamo 20 secondi alla televisione. La televisione come noi la conosciamo, non dico che sparirà, ma sicuramente, ma basta avere dei figli per rendersene conto, guardano il monitor dell'iPad piuttosto che, ecco, o il PC. Ma il prossimo step è chiaro a tutti quanti: i display diventeranno dei display flessibili, arrotolabili, cosiddetti bendable. Mi permetta di dire wearable. Ecco, questa è l'ultima frontiera di dove si andrà. il dispositivo di visione che è integrato nella giacca, integrato nel tessuto, integrato. Queste sono delle linee di tendenza della ricerca che conosciamo tutte. Poi che questo sia un incrocio tra sostenibilità, non lo so, col Google Glass, già i primi fenomeni di dipendenza, questo è più difficile da dire. Però si va in quella direzione, e sicuramente si va in quella direzione perché l'uomo lo vuole, l'essere umano vuole essere sempre informato, vuole essere sempre interconnesso, vuole poter scambiare. È diventata una nuova piattaforma, la cultura, i ragazzi sono completamente, sono always connected. Noi non lo eravamo, per noi è stato un salto quantico, e a questo ormai ci dobbiamo abituare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.